Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Io ho scelto l'Inter perché quando me la sono immaginata con una storia piena, di belle cose e le voglio vivere tutte fino in fondo queste belle cose. Come mi hanno detto l'altra sera sull'aereo, anche scandalosa la posizione in classifica, però è una posizione che ti mette vicino a quelle possibilità di giocare le coppe, ma è la distanza di punti che è una cosa che effettivamente qualcosa deve cambiare alle radici, che racconta poi che 25 punti, 26 punti, 27 punti di distanza sono 10 partite da vincere sulle 36. Io non sono più bravo degli altri. Io non sono più bravo degli altri. Io non sono più bravo di tutti gli allenatori che mi hanno preceduto, ma sono differente. Sono differente. Per cui si comincia a lavorare a modo mio, perché io mi fido del mio modo di fare. Mi fido del mio modo di fare. Fare. Oggi è il grande giorno degli allenatori, sta iniziando proprio in questi istanti a parlare a Trigoria Eusebio Di Francesco. Lo facciamo sentire, proprio le prime battute di Eusebio Di Francesco da allenatore della Roma. A vostra disposizione. Volevo ringraziare innanzitutto il presidente Pallotta, a seguire l'amministratore delegato Gandini, il direttore generale Baldissoni e il direttore Monci per questa opportunità. Per me è un'occasione unica e sono molto felice di raccoglierla. Poi ci torniamo, dopo le 15 vi parleremo anche della gara per i diritti TV della Champions League, perché ci sono novità importanti, ce le racconterà Marco Bellinazzo. Oggi però dicevamo il giorno degli allenatori, saluto Fabrizio Biasin, ciao Fabrizio. Ciao Giovanni, buon pomeriggio a tutti. Abbiamo sentito Spalletti, lunghissimo, un'ora e mezza praticamente di conferenza stampa. Allora, i nostri contatti 800 24 00 24, per chiamare in diretta ed intervenire, oppure 349 238 6666 per i vostri messaggi, sms, whatsapp. E poi vi ricordo che ci potete vedere e seguire anche sulle pagine Facebook di Radio 24, di tutti convocati, /, Radio 24, sul sito radio24.it, sul nostro canale YouTube. Non so se ne volete qualcos'altro, adesso lo apriamo e comunque siamo qui fino alle 15.30. Allora, carissimo Fabrizio, la sintesi dello Spalletto e pensiero al giorno numero uno. Dobbiamo tornare grandi, è uno scandalo essere fuori dall'Europa da tanti anni, la Juve è meno lontana dei punti di vantaggio che ha avuto in questa stagione, l'Inter ha giocatori forti ma serve una squadra. Ti ha convinto? Sì, è stato molto convincente, da subito ha voluto chiarire il senso di appartenenza, ha parlato sempre al plurale, ha parlato anche del passato e si è tirato in mezzo, è stato se vogliamo anche un filo paraculo, ma è giusto che sia così, le intenzioni sono ottime, il lavoro è la base, la volontà di migliorare tutto quello che l'anno scorso non è andato bene, mi è piaciuto soprattutto il passaggio su Zeko, che l'anno scorso era visto come il male della Roma, chi stava vicino a Zeko era un nemico della Roma e poi è diventato una sorta di eroe. La voglia di modificare le capacità di questo gruppo, che sono notevoli, secondo lui e credo anche secondo tanti, secondo me è un ottimo punto di partenza. Sì, è stato anche parecchio critico su quello che è stato l'Inter negli ultimi mesi, in quest'ultima stagione, perché sposare il fatto di dire è scandaloso che l'Inter sia arrivata settima, ottava, cosa è arrivata alla fine di questa stagione, significa dare un giudizio chiaro. chiarissimo, assolutamente, e credo che proprio per questo lui abbia voluto iniziare con un ringraziamento e complimenti a Stefano Vecchi, che invece con i suoi ragazzi ha dimostrato che anche all'Inter si può fare gruppo e si possono raggiungere i risultati. L'Inter è una squadra che soprattutto psicologicamente va cambiata, e questa cosa ce l'ha molto bene in testa. Sì, c'è chi ci ricorda che i punti di distacco dell'Inter dalla Juve in questo campionato sono stati 29, ma credo che 25 fosse un numero per citare insomma un'ampia distanza. Oh, vi faccio sentire anche te Fabrizio, però sei reduce da Piano Gentile, quindi l'hai sentito in presa diretta, un passaggio della conferenza stampa di Spalletti dove gli chiedono se si sente la seconda, la terza scelta, perché l'Inter voleva Conte, perché voleva altri allenatori, e vi faccio sentire cosa ha risposto. Che posizione ero stato messo? Quanti ce n'erano davanti? Secondo me ce n'erano di più di quelli che pensa lei. A me non me ne frega niente. Io sono l'allenatore dell'Inter e vi faccio vedere che ci sto comodo in questa posizione, ci sto bello rilassato e si fanno quelle cose che dobbiamo fare. Rischia un po' Fabrizio di subire questa etichetta, quella di non essere stata la prima scelta? Ma sì, sicuramente, ma non credo che questo sia per lui un grosso problema. Arriva da una piazza molto complicata come quella di Roma. Un allenatore a questo livello deve saper gestire anche queste situazioni. Se le cose andranno bene, migliorerà da subito la sua situazione, viceversa dovrà fare i conti con chi parlerà di Capello, con chi parlerà di Conte, con chi parlerà di eventuali successori. Ma mi sembra che la sua esperienza parli per lui, è in grado di gestire anche questa cosa. Sì, anche se dal punto di vista comunicativo gli ultimi mesi a Roma sono stati complicati e non è detto che Milano sia un ambiente più semplice da gestire. No, non è semplice, perché è successo nel recente passato con altri allenatori, Pioli è arrivato in corsa e sicuramente lui avrà un ruolo più semplice rispetto a chi l'ha preceduto, perché può lavorare fin da subito con una squadra sicuramente importante. Un paio di passaggi hanno fatto discutere. Uno sono i complimenti alla Roma e credo Fabrizio che testualmente Spalletti ha detto che spesso è attaccata ingiustamente, cattiverie gratuite, e mi pare di aver capito che non sia stato apprezzatissimo dai tifosi dell'Inter. L'altro passaggio che fa discutere l'ha riservato alla fine a Icardi capitano, perché andiamo fuori dall'ipocrisia, sono tanti tifosi dell'Inter che ritengono Icardi uno dei mali di questa squadra e la fascia di capitano quasi usurpata. Allora ci si poteva aspettare che Spalletti, arrivando, volesse ricominciare da zero, prendesse anche l'opportunità di ricominciare da zero facendo una scelta diversa. Oggi invece Spalletti ha risposto così. Icardi è il capitano dell'Inter e poi naturalmente strada facendo, oltre lui, oltre alle qualità di grandissimo campione, di grandissimo calciatore quale è, avrà il doppio lavoro di indicare anche ai suoi compagni di squadra quelli che debbono essere i comportamenti dentro lo spogliatoio. Se noi si va a cercare quello che è il valore della parola capitano, basta leggere quello che dice qualsiasi vocabolario e quello è. Quindi si riparte da dove si era finiti, no Fabrizio? Sì, assolutamente. Buona sì. Pace di tutti. La fascia di capitano comporta oneri e onori. Icardi lo sa. Io credo che attorno ai Icardi si sia creata un'immagine sbagliata. Chi ha avuto modo di conoscerlo sa che non è solo un grande professionista, ma è anche uno che vuole avere tutti gli oneri del caso. Vuole far ricredere anche buona parte dei tifosi dell'Inter che lo ritengono capitano inadatto. Spalletti da questo punto di vista è stato chiaro, il problema dell'Inter dell'anno scorso non è stato Mauro Icardi, forse qualcun altro attorno a lui che non ha sposato al 100% la causa nerazzurra. Sì, il problema è che dopo una stagione così ripartire senza un segno di discontinuità, al primo risultato negativo, al primo pareggio mi viene in mente, alla prima difficoltà che certamente incontrerà l'Inter che parte con un nuovo progetto, c'è il rischio che poi ti torni tutto indietro. Ma io su questo non sono d'accordo, secondo me la discontinuità è netta, semplicemente perché si riparte da un altro allenatore con uno staff completamente rinnovato, con un direttore nuovo, l'Inter è nuova quest'anno. Cioè, però tanti tifosi si aspettavano che quella fascia, ad esempio, cambiasse braccio, cambiasse per quanto mi riguarda sarebbe capitano. Stato un errore clamoroso, cioè togliere la fascia al giocatore probabilmente più rappresentativo, forse anche il più forte della rosa, avrebbe voluto dire complicarsi la vita in partenza. Invece, ripeto, siccome Mauro Icardi non ha ammazzato nessuno e secondo me ha tutta la possibilità di dimostrare di essere non solo un bravo giocatore ma anche un bravo capitano, è giusto continuare con lui. Abbiamo il traffico, Fabrizio, io ti chiedo ancora un minuto di pazienza perché poi sentiamo il passaggio e da qui in poi arriva anche Pio Di Cipardo, vi interrogo, 800 24 00 24, ha fatto anche i complimenti alla Roma, Spalletti, ha parlato anche di Totti dopo le 15 insieme alle parole di Francesco, sentiamo anche questo passaggio, però Spalletti ha detto sostanzialmente siamo molto più vicini alla Juventus di quanto dicano i punti di distacco dal campionato e io vorrei sapere che cosa ne pensate. 800 24 00 24, ci fermiamo per il traffico, torniamo su. I love this game. Tutti convocati. Tutti convocati. E la Juventus lo ha fatto, quindi gli si dice bravi. La dobbiamo rispettare per la forza che ha, ma il rispetto non deve essere poi confuso con timore. Noi non abbiamo timore di giocarci, non dobbiamo avere timore di giocarci. Non inciamperemo nell'ultimo scalino della scaletta quando giochiamo contro la Juventus. Si va dritti in campo a vedere chi è più bravo. Questo ancora Spalletti sul confronto con la Juventus. Saluto Pierluigi Pardo e Maurizio Ganza che ci hanno raggiunti. Eccoci. Ciao Pier. Ciao Maurizio. Voglio un commento veloce da Fabrizio prima di salutarlo. Fabrizio Biasin su questo passaggio. Cioè la Juve è meno distante da noi dei punti dell'ultima classifica. Beh, la distanza c'è ed è evidente, però siamo tutti convinti che l'Inter potesse e dovesse fare molto meglio rispetto a quello che ha fatto l'anno scorso, per cui è vero che la distanza non è così ampia, dopodiché c'è un mercato di mezzo che deve assottigliare questa distanza e io credo che per questo loro lavoreranno e cercheranno di diminuire una distanza che in questo momento è oggettiva. Grazie Fabrizio. Grazie a voi, ciao a tutti, ciao ragazzi. Grazie ciao, Fabrizio ciao, Biasin, non so cosa ne pensate voi. Io penso che la distanza, magari in termini di punti, possa anche essere inferiore, ma l'Inter nemmeno dopo il mercato possa essere competitiva con la Juve. Maurizio? Ma io credo che la differenza sia stata evidente, insomma. Credo che l'Inter e la Juventus in questo momento siano distanti anni luce. Pur anche se dobbiamo mettere che assolutamente pensavo che l'Inter potesse fare veramente un altro campionato per i valori in campo senza dover poi mettere a paragone contro la Juventus in questo momento. Credo che l'Inter doveva e avrebbe dovuto lottare per secondo me per i valori in campo per la Champions League. Io sono convinto di questo. Non è stato fatto, con Pioli ha fatto un buon lavoro, ha fatto una rimonta incredibile, poi probabilmente nello spogliatoio credo che poi si sia successo qualcosa, no? Come abbiamo visto tutti. E alla fine l'Inter ha fatto un campionato veramente mediocre. Io però credo che uno dei problemi sia anche stato illudersi a un certo punto di poter essere vicini alla Juve. Non so se queste parole di Spalletti ripropongono un errore. No, lo ripropongono un errore, ma ovviamente l'Inter oggi è una cosa e ci si aspetta che il 31 agosto sia una cosa diversa. L'Inter apparentemente, da quello che leggiamo, da quello che Beninazzo e tutti gli altri ci hanno raccontato, ha un patrimonio potenziale, cioè ha una proprietà fortissima che al netto degli impegni di fair play che deve mantenere entro il 30 giugno poi dovrebbe fare i fuochi d'artificio. Ecco, se questa cosa succederà, secondo me, unita a un anno senza coppe e unita a un allenatore bravo come è oggettivamente bravo Spalletti, al netto insomma degli aspetti caratteriali che possono piacere di più o di meno ma che sono ovviamente un dettaglio, insomma l'Inter è molto competitiva, molto molto competitiva. Poi da qui a dire quanto sarà vicina, io credo che i tifosi dell'Inter non debbano essere tanto spaventati dalla Juve di oggi, debbano essere più spaventati dal fatto che la Juve intanto continua a crescere, continua ad aumentare i fatturati, continua a comprare i migliori prospetti, Schick è un esempio abbastanza evidente, quindi è una corsa nella quale l'Inter parte come un handicap. Però io penso, ti ho detto, io ho fatto una profezia stupida, se vuoi, proprio tipo gioco una fantacalcio, e secondo me la prossima squadra, ma così sto giocando e sto giocando da solo, la prossima squadra che penso che contenderà e magari inizierà lo scudetto dopo la Juve, non so se quest'anno, fra due anni, fra tre anni, fra quattro anni, sarà l'Inter. Sì, la sensazione è questa. Maurizio. Sono d'accordo anch'io. L'Inter, perché... cioè non il Napoli che è già avanti e magari ci prova l'anno prossimo. Il Napoli ha fatto delle grandi cose, come ha fatto delle grandi cose vicino, la Roma, però alla fine credo che l'Inter abbia una grande potenzialità economiche, evidenti e incredibili. L'unica cosa, devono stare attenti a chi compreranno, perché insomma nella storia dell'Inter insomma se ne sono viste tante. E non vuol dire avere soldi a palate, non vuol dire poi comprare i giocatori migliori. La storia ci insegna che il parametro zero delle volte hanno fatto differenza e ha fatto vincere qualcosa di incredibile a tutte le squadre in questi ultimi 10-15 anni. E magari i giocatori acquistati a son di miliardi poi siano venuti qua in Italia e abbiano letteralmente fallito. Quindi credo che la campagna acquisti deve essere mirata, e deve essere mirata soprattutto al tipo di gioco che farà Spalletti. Spalletti, secondo me, è l'allenatore ideale in questo momento dell'Inter, è esperto. Io l'ho avuto a Venezia tantissimi anni fa e so quale prospettive potesse avere, infatti l'ha dimostrato. Però bisogna stare attenti sul mercato. Io credo che in questo momento il binomio direttore sportivo e Spalletti sia un binomio vincente, e che potrà far benissimo anche soprattutto in prospettive future. È vero che ha qualche limite caratteriale a Roma negli ultimi mesi Spalletti, sì, si è visto che è andato in difficoltà. Poi sentiremo dopo qual è stata la sua analisi. Ha detto: sono dovuto andare via perché mi sono accorto che dividevo invece che unire. Sì, divideva sicuramente perché unire. Allora, io penso, sai, su Spalletti abbiamo parlato mille volte. Io penso che Spalletti avesse ragione. Come punto di partenza avesse ragione, cioè volesse proiettare il focus, l'interesse principale della Roma sul futuro, e invece una parte fondamentale, ce ne siamo accorti in maniera plastica e devo dire molto romantica, molto bella, nel giorno dell'addio di Totti, forse se ne sono accorti anche quelli che non conoscono Totti e non conoscono Roma, era impossibile tutto questo, era impossibile perché Totti è un patrimonio della Roma e della città di Roma talmente grande che l'elaborazione del lutto era complicata, era più complicata di quello che era, e anche questo era nel calcio meraviglioso, perché razionalmente parlando è ovvio che tu non puoi pensare di partire da un quarantenne, cioè è abbastanza ovvio, abbastanza evidente. No? Quindi aveva ragione Spalletti tutta la vita sulla lettura della situazione. Il punto è che a un certo punto, secondo me, la situazione si sta ribaltando, e quindi quando la situazione sembrava completamente normalizzata con Totti, perché Totti comunque non faceva polemica, se ne stava bello, tranquillo, facioso in panchina a distribuire caramelle ai compagni, a sorridere e tutto sommato a essere felice dei pochi minuti nei quali veniva chiamato in causa, Spalletti però non ha mollato questo tema, cioè aveva vinto lui, aveva stravinto lui. C'è rimasto sopra e c'è rimasto fino alla fine della stagione. Poi Maurizio Ganz ci ha lavorato, ce l'ha detto, Venezia, qualcuno ci ricorda che a Venezia Spalletti fu esonerato, scrive un amico al 349-238-6666, è anche un'altra era geologica, Maurizio. Ma è chiaro che la squadra del Venezia non poteva essere paragonata. Poi chi c'era? Zamparini, presidente? Sì, è Zamparini, quindi quell'anno lì c'è stato Oddo che ha allenato il papà di Massimo, che ha allenato mi sembra due partite e l'abbia poi mandato via, ha mandato via Spalletti, ha preso poi Materazzi, insomma ha girato, insomma Zamparini lo conosciamo, io l'ho avuto come presidente, sì, quindi era anche facile mandarlo via, però onestamente si vedeva, onestamente chiaramente uno Spalletti diverso, perché parliamo di vent'anni fa, sì. Uno Spalletti diverso, però uno Spalletti, io ti dico, tatticamente, tecnicamente super, dico. È un allenatore che lavora bene. Abbiamo un paio di minuti prima della borsa. Se alleni una squadra di Zamparini, sì, è una medaglia. È una medaglia. Assolutamente. Posso approfittare per Pier di Maurizio Ganz un minuto? Perché lui è padre di un ragazzo che si sta facendo strada nel mondo del calcio. È uno che nel Milan c'è stato. Sa cosa vuol dire indossare quella maglia. Volevo sapere che cosa pensa della vicenda Donnarumma. Io credo che il ragazzo in questo momento sia in mezzo al cuore, che è quello rossonero, sia in mezzo al procuratore, che chiaramente vuole guadagnare, e sia in mezzo a una situazione non facile. Io credo che alla fine, spero che Gigio possa decidere di rimanere nel Milan, perché comunque è un ragazzo di 19 anni, un ragazzo che andrà a guadagnare tantissimi soldi con la maglia del Milan, e spero che possa capire che il Milan stia partendo da lui per poi costruire una squadra importante dei prossimi anni. C'è qualcuno che lo sta consigliando non benissimo, Maurizio? Come, scusa? C'è qualcuno che lo sta consigliando non benissimo, perché tanti tifosi, anche dovesse rimanere al Milan, la verità è che si sono un po' disamorati. Sì, ma non per colpa sua, qui c'è di mezzo un procuratore che fa i suoi affari, un procuratore che vede le sue cose, insomma, più che la maglia o l'amore del ragazzo per la maglia del Milan. Quindi non è questione di consigliarlo male, è questione che il procuratore fa i suoi affari e quindi viene probabilmente spinto da una parte all'altra per il discorso economico, non sicuramente il discorso di cuore, perché Gigio ha già detto che lui è tifoso del Milan a tutti i costi, però sai, qua c'è di mezzo altro. Io onestamente spero per il Milan e per Gigio che possa rimanere lì. Pier, domani dovremmo sapere qualcosa. Sì, guarda, ne parlavo ieri dopo della parte finale dell'intervento. È fondamentale, questo vale per ogni lavoro, vale per i personaggi dello spettacolo, per gli artisti e ovviamente per i calciatori, che esista una sintonia perfetta e una comunanza di idee fra chi ti assiste e l'assistito. Questo è un esempio. Allora, che Raiola sia un fenomeno non c'è dubbio, lo dicono i risultati. Cioè Raiola è uno che ti porta, ce lo vorrei avere io come agente, lo stato punto di vista, no? Però è anche vero che è uno che ti fa fare delle volte delle cose molto aggressive. Donnarumma è un ragazzo giovane che ha avuto la fortuna, comunque la bravura, di trovarsi titolare, punto di riferimento, quasi capitano, simbolo di questa squadra a 18 anni. Questa squadra è una squadra che, con tutto rispetto, è il Milan, cioè è una grande del calcio europeo e mondiale, ed è una squadra che si sta anche rapidamente, secondo me, rimettendo a posto. Quindi la cosa giusta da fare è quella, secondo me, non firmare un contratto e vedere che succederà. Poi magari fra 2 o 3 anni, se il Milan... Ma magari dovesse... Pier finisce così, magari sì, finisce magari così, finisce ma così, se anche finisce così allora oggi, c'è passato troppo. Non lo so, perché poi sono molto bravi con i soldi degli altri, ma fra guadagnare 3,5 ma fare l'eroe del club e guadagnare 4 ma fare incazzare tutti, forse sì. Anche perché 3,5 sono quasi 5, i 3,5 sono quasi 5. Il problema è anche un altro, che se dovesse andare via dal Milan non è che va a giocare in una squadra di secondo livello, cioè se dovesse andare via andrebbe via, probabilmente anche questo è il lago della bilancia, andrebbe, non so, a Real Madrid o a chi che sia, insomma, sì, però io credo anche, Maurizio, che a 18 dico, anni ti puoi accontentare anche del Milan. Io rimarrei al Milan perché il Milan, come vedete voi, sta cambiando pelle, stanno investendo, stanno facendo una buona campagna acquisti, ma soprattutto stanno progettando per i prossimi anni come lo sta facendo l'Inter. Io credo che in questo momento per Gigio sarebbe l'ideale restare, fare il capitano di questa squadra e risviluppare un progetto, perché insomma, come ha detto Luigi, è il Milan, è il Milan, ma poi hai 18 anni e hai tutta la vita davanti. 18 anni è il Milan e sei tifoso di questa squadra, credo che sia il massimo della vita. Vi devo fermare perché siamo già in ritardo sulla borsa. Ringrazio Maurizio Ganz, grazie alla prossima, presto. Grazie a tutti. 800-24-00-24, poi parliamo anche delle parole di Capello, ve le racconto a Nanchino, la presentazione con Suning, però fra un minuto c'è anche De Biasi, che oggi si è dimesso da CT dell'Albania. Tutti convocati. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Allora, Le do due notiziole veloci. La prima, oggi su tanti giornali l'accordo tra l'Inter e la Roma per Rudiger, da ufficializzare poi dopo il 1 luglio, non risulta. Non risulta che esista questo accordo, non risulta che la Roma abbia in cima alla lista dei giocatori da vendere Rudiger. Voci che vengono da ambienti molto vicini alla società. Poi le parole di Capello alla presentazione da tecnico dello Jiangsu Suning a Nanchino, quindi dipendente di Suning che è proprietario anche dell'Inter. Si è presentato Capello con a fianco Zambrotta e ha detto, due punti aperte virgolette, Gianluca ha giocato con me alla Juventus, insieme abbiamo vinto due campionati che poi ci hanno tolto, ma noi li avevamo vinti sul campo. I campionati sono quelli di Calciopoli, capito Pierre? Sì, beh, la cosa che Capello ha detto mille volte, capisco che sì, però detta da dipendente di Suning ha un peso diverso. È vero, è vero, è una sottolineatura, ma sai, Suning probabilmente non sta neanche, come del resto nemmeno Toir. Io rimasi abbastanza colpito da una partecipazione di Toir a Tiki Taka 2 o 3 anni fa. Non sapeva niente. No, non è che non sapeva, ma non gliene fregava niente, dai. Pensava al futuro, ecco, era concentrato sul futuro. Sì, sicuramente, però non mi sorprende, conoscendo Capello, che è un uomo che comunque quello che pensa dice, cioè se lui ti deve dire che la ribolla gialla di Tizio è meglio della ribolla gialla di Caio, lui va avanti per ancora un quarto e te lo dice e non gli fa mai cambiare idea. Quindi figuriamoci su due scudetti che lui in campo lui legittimamente ha vinto. Certo. Poi è ovvio, perché questa cosa qui è fondamentale, cioè che i giocatori della Juve, quei due scudetti, se li sentano loro perché li hanno festeggiati, li hanno vissuti, li hanno sudati. Questo è indiscutibile. Poi c'è la giustizia sportiva che ovviamente sì, ma è quella che decide. È la particolarità che parla altro. Da dipendente di Suning, che insomma fa oggi, secondo me, rende notizia queste parole di Capello. Angelo dalla provincia di Varese, 800240024. Angelo. Buongiorno. Vai. Senta, volevo intervenire per quanto riguarda la questione di Donnarumma. A parte sì. Che adesso tutti lo chiamano Gigio, vabbè. A me sembra strano che un ragazzo di 18 anni riempia le radio, i giornali con tutta sta storia. Cioè, ci sono fior di giocatori, io sono juventino, ma a parte quello, Buffon, Del Piero, gente che è rimasta in Serie B, e per andare ai giorni nostri, Amsic del Napoli, che Raiola l'ha rifiutato, esatto. L'ha allontanato. Allora, cioè, mi sembra... ma i giornali... No, ma i giornali, le dico, i giornali si riempie la notizia. Amsic rimane a Napoli, credo che tutti, non soltanto i tifosi del Napoli, apprezzino il comportamento certo. Fedele di questo giocatore, però fa meno notizia perché tanto si sa che gioca a Napoli. Donnarumma fa notizia perché tutti ci chiediamo, prima di tutto i tifosi del Milan, dove giocherà l'anno prossimo. Quindi non è che i giornalisti siano cattivi, è che chiaramente si parla di quello che interessa. Mentre su Amsic non ci sono dubbi, gli stringiamo la mano e gli diciamo bravo, perché comunque è una scelta di grande fedeltà a una maglia di una città dove tra l'altro non è nato. Amsic non è esattamente di fuori grotta, è un napoletano adottivo, è più napoletano De Luca, ma Amsic ovviamente serve la maglia del Napoli con tanto amore, e su Donnarumma si discute proprio perché forte, è giovane e non si sa dove giocherà. Sì, ti leggo qualche altro messaggio. C'è un amico che scrive da milanista: dico che Donnarumma può anche andarsene, non è possibile a quell'età essere consigliati da un mercenario. Non è un mercenario, è un procuratore, Mino Raiola. Poi secondo me gli interessi di Raiola in questo momento non coincidono con gli interessi di Donnarumma, ma magari sbaglio io. Poi un tifoso juventino, Marco di Cassano Magnago, che dice: Donnarumma non è ancora un fenomeno, ma bisogna ricordare come i tifosi del Milan hanno trattato una leggenda come Maldini e anche il club. Raiola mangia fuoco, Donnarumma Pinocchio. Poi c'è chi invita il Milan a buttare fuori Raiola. Sì. No, nel senso che allora, come i tifosi del Milan, una parte dei tifosi del Milan, perché poi c'era pure chi applaudiva, ha trattato Maldini, sono d'accordo, una pagina che a me non piace per niente. Il fatto che Maldini non abbia trovato ruolo nel Milan successivo è un'anomalia. È pure vero che se io devo pensare a una squadra che negli anni ha costruito un senso di famiglia con gli ex giocatori, penso proprio al Milan. Cioè, Maldini è l'eccezione, un'eccezione pesante, stiamo parlando forse del più forte di tutti, o comunque, insomma, nella triade, ci mettiamo Van Basten, non lo so, bel dibattito in quei 25 anni di Milan berlusconiano su chi sul podio. Però ecco, Maldini sicuramente è un'azienda ed è un peccato che non abbia trovato un posto, questo non c'è dubbio. Però in generale il Milan invece è una società che ha avuto tante leggende al suo interno, che ha spesso appuntato su allenatori che venivano dalla squadra. Stanno tornando, Pierre, hai letto anche Abbiati sta tornando al Milan. È l'eccezione pesantissima. Che smentisce una regola che invece secondo me è quella di Milan. Sì, non è l'unico, anche Albertini è fuori, Costa Curta è fuori, ce ne sono. C'è anche se poi il giudizio su Rivera, che non è la parte del Milan di Berlusconi, però comunque una leggenda del Milan, ci sono. Però insomma, Milan è anche una società che ha fatto lavorare Filippo Galli, che ha fatto lavorare Tassotti, che ha fatto lavorare Ancelotti, che ha fatto lavorare Baresi, insomma, Massaro, ce ne sono tanti. Dai, Marco e Gianluca ci sono. Marco, Gattuso che torna. Vai Marco. Sì, salve, complimenti a tutti prima Grazie. Di tutto. Io volevo porvi due domande sempre sul Milan. La prima è su Donnarumma, sicuramente credo che debba andare via a questo punto. Voi non credete che per il bene di tutti, dopo tutto questo casino mediatico, debba andare via? Anche perché non credo che, anche se rinnova, in un futuro possa essere da esempio per tutti i giocatori che possono arrivare al Milan. Buffon ha fatto la Serie B con la Juventus, è stato d'esempio anche per chi è arrivato dopo. Essere numeri uno, pagati da numeri uno, perché un ingaggio dai 5 milioni quasi all'anno è un ingaggio da numeri uno, è un discorso validissimo che Donnarumma e Raiola stanno facendo, ma è anche vero che non sono da esempio numeri uno anche a livello di immagine come il signor Buffon, che ha tutto dalla sua parte. Grazie, secondo me c'è grazie un Marco. Tra Donnarumma e Buffon a livello umano. Posso dire una cosa? Io su questa cosa di Buffon ne parlavamo anche facendo il paragone su Icardi, che non sarebbe ancora pronto a fare il capitano. Ne parlavamo nelle scorse settimane. Buffon a 23 anni non era pronto a fare il capitano, non lo faceva. Quindi fare il paragone fra Buffon oggi e un ragazzo che ha 20 anni meno, io credo sia la cosa più sbagliata possibile. Assolutamente. Poi c'è anche da dire che il calcio, ne parliamo tutti i giorni. Appunto è materia iperliquida. Io sono fra quelli che in questi giorni consiglia, per quel poco che conto, a Donnarumma di firmare, perché penso che comunque un danno d'immagine lui l'abbia già ottenuto. Allo stesso modo però ti dico che poi secondo me se firma, se gioca bene, al 20 settembre ci siamo dimenticati tutti di questa roba. Non lo so. Secondo me non è stata una gestione positiva. Cioè io gli avrei proprio consigliato di firmare subito, e se gli interessi suoi non coincidono con Raiola, con quelli di Raiola, allora qui c'è il problema. È nel discorso che facevo ieri, cioè gli interessi di un procuratore, di un agente, devono coincidere sempre con gli interessi dell'assistito, soprattutto se l'assistito è molto giovane. Quindi a un certo punto secondo me Donnarumma deve, anche se ha 18 anni e anche se Raiola è un numero uno, decidere con la sua testa. Caromino, io ci tengo e Trova l'accordo migliore, ma accordo deve essere. Io sottoscrivo tutto. Poi dopo le 15 parliamo col decano dei procuratori sportivi italiani, Claudio Pasqualin, che fu il procuratore del primo Del Piero, perché oggi in tanti evocano dicendo non è solo Donnarumma, ricordatevi quel Del Piero lì, come erano lunghe le trattative per i rinnovi con la Juve, e cerchiamo di capire se le storie possono essere in qualche modo comparabili. Abbiamo il traffico, poi ci sono Gianluca e Bruno, Gianluca D'Ancona e Bruno da Forlì. Traffico. Convocati. Tutti convocati. Ho visto grande innovazione, grande voglia di diventare grandi, per quello c'è una società che sta facendo le cose per poter arrivare al top a livello europeo. Il progetto della Roma parte innanzitutto dagli uomini. Dal fatto che mi ha colpito in primis i direttori che mi volevano a tutti i costi a Roma, il desiderio di voler fare qualcosa di importante e di costruire una squadra che faccia divertire. Questo di Francesco, poi dopo le 15 facciamo sentire i passaggi più importanti della sua presentazione di oggi. Carissimo Pierre, è arrivato il comunicato ufficiale del Milan. Abbiati torna rossonero, sarà club manager, quindi l'ex portiere che ha giocato per 15 anni al Milan farà da interfaccia tra squadra e società e riporterà direttamente al responsabile dell'area tecnica e direttore sportivo Massimiliano Mirabelli. Dunque Abbiati torna nel Milan. Sì, questo è il DNA del Milan, anche se è cambiata la proprietà, però insomma, la macchina di Berlusconi faceva così. Maldini, come abbiamo detto prima, è stata un'eccezione, è dolorosa perché Maldini è Maldini e quindi è chiaramente uno di quelli che fa notizia, è come Totti a Roma o come Del Piero a Torino, però insomma, in linea, prima me l'ho dimenticato, anche Gattuso che è appena tornato, cioè il Milan questo tipo di cultura condivisa da squadra vincente, da club che forma una idea di calcio, di filosofia, ce l'ha sempre avuta negli anni d'oro di Berlusconi, e adesso mi fa piacere per quel poco che conta, sta ripartendo da lì. Ma mancherà solo la bandiera nella figura che era stata offerta a Maldini. Sì, però sappiamo che comunque Passone Maldini l'ha chiamato, cioè, dire, poi si può discutere sull'offerta, chissà, Maldini l'ho visto fra l'altro l'altra sera alla Fascia, insomma, ripeto, Maldini è Maldini. Ma secondo no? te, cioè, si è pentito di aver detto di no? Non lo so, però certo, insomma, io penso che oggi il Milan che sta nascendo sia divertente, no? Cioè, se uno ha nel cuore quei colori e ha la possibilità di far parte di quel progetto, perché no? Poi è ovvio che Maldini è una figura talmente grande nella storia del calcio che non è facile costringerla, è un po' veramente come il discorso di Totti. E che gli fai fare? No, è una questione di ruolo, certo, per portarlo però, giusto per fargli fare la bandiera non serve a niente, il ruolo che Fassone pensava era quello di terzo in una triade con lui e Mirabelli, ma poi tutto si è arenato su chi potesse avere l'ultima parola, sì. Poi abbiamo Gianluca e Bruno, vai. Sì, che c'è un po' di scetticismo a Roma su Di Francesco e più che altro sul progetto della Roma, perché comunque una squadra che è arrivata seconda e che come prima cosa vende o comunque ha delle voci, al di là di Moreno, ha delle voci, vengono a costare più voci di cessioni che di acquisti, ovviamente fa effetto. Però Di Francesco è almeno quanto Sarri quando dall'Empoli è arrivato al Napoli, ma secondo me è anche di più, nel senso che nel percorso di crescita, poi si è fatto benissimo in questi due anni, però Sarri quando è stato preso dall'Empoli per andare al Napoli aveva, diciamo, un palmarès e una esperienza inferiore a quella che ha Di Francesco, che ha fatto tanti anni ormai di Serie A e li ha fatti con una squadra con risultati importanti, provinciale come nome, ma in realtà con un'idea di calcio con dietro un progetto. Tra l'altro, Pier, la Roma se lo prende dopo la stagione peggiore, il che significa che non sceglie sull'onda dei risultati. Certo. Gianluca, dai, 800 24 00 24, a proposito, restiamo qui fino alle 15:30, quindi vi aspetto ancora, e poi arriva Marco Belinazzo, vi diamo tutte le ultime sui diritti TV della Champions, parliamo con Claudio Pasqualini e parliamo di Di Francesco e della Roma. Prego Gianluca. Pronto, buongiorno. Vai. Senta, intanto mi complimento per la trasmissione, vabbè, non perdiamo tempo con questi convenevoli. Bravo. E soprattutto anche con Pardo, perché Pardo secondo me è un grande, è sottoutilizzato. È sottoutilizzato, non lo so. Ascolta, tu sei relegato all'orario di Marzullo. Sì. Ti rendi conto? Ma adesso fa anche le 19. Ho capito, le 19 è finito già. Vedi, io sono attento. Posso dirti, non ci crederai. Ma io stamattina sono stato da Marzullo a registrare una trasmissione in Rai. Non so quando, ma tardi. Ma lui fa una trasmissione che può andare in onda solo a quell'ora lì. Te no, sì. Però. Scusate, l'orario è troppo tardi, è impossibile seguirti. Tu, dall'alto della tua cultura umanistica, puoi dare molto, non sbagli un congiuntivo. Gli ospiti sono sempre azzeccati, mirati. È vero che è un'eccezione, allora, ne sbagliamo tanti, quindi. No, se io avrebbi avuto. E poi lì, quando c'è gente non parli mai, Piero. Mai. Guarda, ho fatto un gruppo d'ascolto, eravamo in quattro amici al lavoro. Sì. Non dico dove lavoro perché dopo. Se no vi licenziano. Dico, vuoi vedere ogni volta che lui attacca un discorso, gente interviene, aumenta un decibel il volume. Ma no, facciamo gli ascolti così. Dai, però Gianluca, perdonami, perché c'è Bruno che ci sta aspettando, sennò non riusciamo a passare. Allora, volevo dire, allora, Spalletti piace da matti perché è di Certaldo, mi garba quando parla e quindi per me è sempre un piacere sentirlo. Però di cosa sta parlando? Di cosa? Non ha visto un giocatore, non ha comprato ancora nessuno e già non avremo timore della Juve. Ma manco la Juve c'era timore della Real. Cosa deve dire Gianluca? Cosa deve dire? La Juve è fortissima, non riusciremo mai. Facciamo parlare a Pierre di varie umanità. Vabbè, allora adesso lo facciamo parlare, grazie Gianluca. Bruno, dai, Bruno. Budget però, Non ho visto i giocatori, ma ha visto i budget. Bruno, dai. Sì, sì. Sì, vai. Buongiorno. Buongiorno. Sì. Volevo parlare un attimo di Buffon, perché io l'ho ammirato tantissimo. Io sono juventino, premetto, ma sono anche piuttosto vecchietto, quindi mi ricordo il passato e i comportamenti che avevamo anche noi tifosi nel passato. Buffon si è sempre distinto come un ragazzo che atteneva molto al suo gruppo, alla sua squadra, l'ha seguito in B e non credo che l'abbia fatto per soldi. E teneva molto la nazionale, è stato un esempio per tutti. E io mi ricordo che quando noi eravamo ragazzi, mi ricordo che eravamo qua in Romagna, eravamo molto... Vai Bruno, perché c'è il GR, dai. Allora sì, allora dai, ciascuno di noi aveva piacere che la squadra dell'avversario sì. Che perdesse naturalmente. Ma sì, ma si può guffare, c'hai ragione Bruno, dai, questo è un tema che abbiamo già toccato. Pier, abbiamo il GR, ti saluto domani dopo GR alle 14. Ciao ragazzi, ciao. Noi invece torniamo fra 5 minuti, 800 24 00 24, diritti TV della Champions League. La Roma, parliamo ancora di Donnarumma, però io voglio sapere cosa ne pensate voi. Siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Scegliete la vita. Scegliete un lavoro. Scegliete una carriera. Scegliete la famiglia. Scegliete un maxi programma radiofonico. Scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore. Scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy. Ogni domenica alle 14.30. su Radio 24, un programma di Pino Insegno. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Se vuoi stare seduto in panchina a guardare, o vuoi entrare in campo, ricominciamo tutti ai vostri posti. E andiamo! Domani. Tutti convocati. Eccoci, ci siamo anche domani, però ci siamo anche oggi fino alle 15.30. 800 24 00 24, oppure se volete scrivere 349 238 6666 sms WhatsApp. Ci potete vedere, e se andate sulle nostre pagine Facebook Radio 24 Tutti Convocati trattino Radio 24, vedete anche Marco Bellinazzo, che è già qui ed è un bello spettacolo. Beh. La telecamera è lì, carissimo Marco. Queste sono le modernità della tecnologia applicate. Sì. Allora, ci siamo, no? Assegnati, o stanno per essere assegnati, i diritti della Champions League dal 2018, quindi lo diciamo, perché poi giustamente chi invece li detiene per l'anno prossimo, certo, ci tiene a precisare. L'anno prossimo resta tutto come quest'anno, fino a prova contraria. Dal 2018 al 2021 invece cosa succede? Dovrebbe tutto andare a Sky, perché uso il condizionale, perché manca ancora l'ufficialità, la procedura di assegnazione più complessa in ambito UEFA, in particolare quando come pare sono arrivate, insomma, due offerte, quella di Mediaset e quella di Sky, abbastanza simili, quindi il board della UEFA, in particolare Team Marketing, questa società che assiste, che sarebbe la Infront della UEFA, valuta le offerte, sente chi ha proposto le varie opzioni, giudica quindi anche, per esempio, un aspetto che era stato sottovalutato in passato, è quella della visibilità, perché molti sponsor della UEFA non sono contentissimi che le partite vadano solo in pay, perché si riduce ovviamente quello che stiamo parlando di un rapporto da 1 a 10 negli ascolti. Esattamente, e quindi ecco che si pone la necessità di avere uno spazio visibile anche sulla TV free. E allora se dovesse prendere, come tutto pare, ripeto, manca solo l'ufficialità, i diritti Sky della Champions e probabilmente anche dell'Europa League, poi si dovrà capire, in particolare per una partita di Champions del mercoledì, dove ci sarà l'affaccio sulla TV. Si chiede giustamente l'ascoltatore da casa se il fatto di non aver sentito nominare un'offerta Rai esclude che possa andare in chiaro una partita sulla assolutamente, Rai. Se ne era parlato in queste settimane. Assolutamente no, perché evidentemente Sky può fare un accordo con la Rai per dare magari una partita in chiaro non dandola magari sui propri canali del digitale terrestre. Questa è un'opzione, non l'unica evidentemente sul tappeto, però insomma aspettiamo ore il comunicato della UEFA di Sky su questo, sì, su questo aspetto. Che chiarisca tutto. Perché Mediaset ha fatto un'offerta per la Champions e non l'ha fatta per il campionato italiano? Beh, perché chiaramente serviva molto molto di più per il campionato italiano, perché la base erano comunque questi 200 milioni, credo che la base per le 8 partite del digitale terrestre della Serie A era appunto la base 200 milioni, e questo rendeva chiaramente però meno competitivo questo pacchetto, perché dentro c'erano vero Juventus, Inter, Milan e Napoli, ma poi c'erano le tre neopromosse, l'ultima della Serie A per bacino d'utenza, quindi era meno appetibile questo pacchetto. Invece Mediaset ha provato a fare l'offerta sulla Champions in virtù poi della possibilità, questo lo scenario finanziario che abbiamo davanti, di un accordo in futuro con Vivendi, che comprenda naturalmente non solo Mediaset Premium ma Mediaset in toto, e che possa garantire a Vivendi il canale di trasmissione, cioè il digitale terrestre, e a Mediaset i soldi per fare l'offerta anche sulla Serie A e per prendersi il prodotto. Sì, vedremo, che poi è la scommessa che fanno i club di Serie A. Un ascoltatore che non si ferma chiede dove potrà vedere il Milan in Europa League in questa stagione: su Sky, fino a prova contraria, perché così è, e poi vediamo che cosa succede in attesa di questo comunicato. 800 24 00 24, Sandro da Treviso. Sandro, sì, buongiorno. Allora, vorrei parlare di Donnarumma. Secondo me pecca un po' di presunzione e di poca riconoscenza. Io sinceramente del suo contratto il 20% lo darei a Mihajlovic, e anche del suo cartellino, perché inevitabilmente è stata una scommessa vinta da Mihajlovic, anche contro il parere della società. Quindi o lo facciamo venire un mese al Milan, fare esordire Prizzari, oppure che vada dove vuole. Insomma, a questo punto io sono un milanista, per cui non sono tanto contento di questa situazione. E se invece restasse? Perché poi la scommessa è quella, se firma poi i tifosi lo perdonano. Ha compromesso la sua immagine anche nei confronti di chi arriva, di chi magari è più titolato, e poi è tutto da vedere se la resa è secondo le aspettative. Io avrei fatto un contratto a crescere da 1,5 milioni a 2 a 3 negli anni, perché ha 18 anni questo ragazzo, insomma, non è che... Sì, anche se credo che quelle, Marco, siano cifre fuori mercato, 1,5 milioni per Donnarumma. Beh, è chiaro che... Capisco che sono tanti. L'esploit che ha fatto in questi anni, la sicurezza con cui gioca, fa quasi dimenticare che ha 18 anni, per cui quando si siede poi al tavolo, soprattutto se a quel tavolo si siede un signore che si chiama Mino Raiola, evidentemente l'età è l'ultimo fattore che viene considerato, e quindi si valuta quelle che sono le potenzialità ma anche le capacità dimostrate, e si va ben oltre questa soglia, con il che chiaramente in queste situazioni è evidente che si crea poi una situazione in cui è la famiglia che deve intervenire per suggerire le strategie al procuratore, se ritiene, se il procuratore va avanti su quella falsa riga. Immagino insomma che la famiglia sia concorde con quel tipo È difficile pensare che la pensino diversamente. Saluto Claudio Pasqualin, decano dei procuratori italiani. Avvocato, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Che abbiamo convocato perché molti in questi giorni accomunano la vicenda di Donnarumma a quelle del primo Del Piero, i primi rinnovi lunghi, complicati con la Juventus. Sono vicende che l'avvocato Pasqualin conosce benissimo. Secondo me non sono storie assimilabili, però vorrei sapere cosa ne pensa. Ma direi di no, perché non ci furono tutti questi tormenti. Poi alla fine sì, ce ne fu una, ma quello, per quello che fu definito il contratto del secolo, anzi qualcuno si spinse a dire addirittura del millennio, perché eravamo allo scadere del 99, quindi entravamo nell'anno 2000, quella situazione diciamo fu imputabile a un errore strategico, se si può dire, della Juventus, la quale invece di portare sul letto di dolore a Alessandro, che era infortunato, il contratto da rinnovare, tergiversò per come dire, verificare appunto la guarigione. Ed è logico che a quel punto, avendo un contratto in scadenza, Alessandro, tramite il suo subdolo e callido procuratore, in qualche maniera ne approfittasse, tra virgolette. Quindi la cifra salì esponenzialmente, perché di lì a poco Alessandro sarebbe stato libero, esploso. Insomma, e poi sarebbe esploso, lo sapevate tutti che sarebbe esploso definitivamente, no? Ma sì, no, ma al di là della serie La classe non è acqua, chi vedeva La classe insomma poteva immaginare, però quando c'è un infortunio, quando c'è un infortunio, però bisogna scegliere. La Juve fece la scelta all'epoca sbagliata, nel senso che invece di credere alla completa e piena guarigione, se la tirò. Io però ho questa riflessione che sto portando avanti in questi giorni. Voglio chiedere cosa ne pensa Marco Bellinazzo, Claudio Pasqualin, cioè che in questo caso Minoraio la stia facendo, i suoi interessi sono legittimi ma non coincidano pienamente con gli interessi di Donnarumma, cioè non esiste un motivo per non firmare questo benedetto rinnovo. Il Milan si sta rinforzando, l'offerta è comunque congrua per un ragazzo di 18 anni, le prospettive, anche dovesse vincere il Milan lo scudetto nel 2022, come ha scritto Fassone nel suo piano, a 23 anni Donnarumma avrebbe tutto il tempo per diventare una leggenda. Andatevi a vedere quanti scudetti avevano vinto Buffon, Maldini, Baresi a 23 anni. E quindi c'è sotto qualcosa che è del calcio di oggi, Marco. Beh, credo che sia la volontà di Minoraiola, credo, di ripetere l'affare Pogba, cioè di inserire delle commissioni, chiamiamole così, tra virgolette, per non andare contro le regole della FIFA sulle TPO, perché poi alla fine mi sembra che per certe somme non si possa che avvicinarsi a quel concetto, ma di fatto per avere una fortissima plusvalenza personale in caso appunto di cessione del giocatore. Credo che poi su questo si stia discutendo e questo rappresenta questa cosa. Come la possiamo definire, Pasqualin? Ma io innanzitutto c'è una considerazione da fare. Bellinazzo ha citato poco fa le TPO, quindi riferimento anche alle norme delle FIFA che le proibirebbero in qualche maniera, no? Quella stessa FIFA che è assolutamente corresponsabile di questa situazione, avendo abolito quelle minime regole di buon senso che prima c'erano a disciplinare l'attività dei procuratori. Ora siamo in una vera e propria giungla dove non c'è la minima regola, non c'è neanche la percentuale che il procuratore adesso può fissarsi e determinarsi se ce la fa, incontrando la volontà della controparte ad libitum, per così dire, può chiedere per sé il 90%, non c'è norma che glielo impedisca. E io ricordo i bei tempi, tra virgolette, nei quali non si poteva esorbitare il 5% del compenso lordo. Eravate mister 5, mister 10% al massimo. Però ecco, nessuno nota insomma che la FIFA non si sa per quale motivo. Però nel caso di Donnarumma, c'è qualcuno che sta sbagliando, lo sta consigliando male? Cioè se fosse un suo assistito, che gli farebbe fare? Ma io farei come devo fare, proprio per regolamento che d'accordo non esiste, ma per legge di natura, oltre che per le norme di diritto e il comportamento del buon padre di famiglia, è quello che il codice dice, l'avvocato deve sempre assumere nell'interesse del cliente, farei il di lui interesse. Che oggi qual è? Restare e andar via? Ma no, è restare alle condizioni più favorevoli possibile per lui. Ma i 4,5 sono delle condizioni favorevoli a 18 anni o no? Dai, avvocato, andiamo al punto. Sì, ma chi dice di no? Certo che sì. No, evidentemente sì, no, se non è ancora stato firmato. Ma noi non siamo là, noi non siamo a tavola con la coppia, c'è anche un parente, no? Sì. Mi pare che è oltretutto parente anche di Donnarumma. E quindi non siamo là, non possiamo saperlo, ma è impensabile credere che Raiola vada ultra petita, è impensabile credere che come dire, esorbiti i limiti del mandato. Quello che Raiola fa lo fa con l'assenso evidentemente e con l'assoluta adesione, non dico complicità, ci mancherebbe altro. Quindi hanno ragione i tifosi che la stanno prendendo anche un po' con Donnarumma, perché evidentemente hanno capito che dietro c'è lui. Allora il regolamento era chiaro e diceva più o meno testuale: le direttive per il migliore espletamento del mandato sono dettate dal calciatore. Proprio lo diceva adesso, Adesso non c'è più. E quindi si fa sempre fatica a capire. Grazie avvocato. A voi, buona continuazione. Grazie all'avvocato Pasqualini, Ivano dalla provincia di Monza e Brianza. Ivano. Sì, buongiorno. Tifoso milanista da lunga data. Sono contento della coppia Fassone-Mirabelli, anche se all'inizio ero un po' scettico. E secondo me l'ultima cosa che devono fare adesso è mettere Donnarumma sul mercato e allo stesso tempo eliminare sia Abate che Bonaventura. Sì. In modo che, cioè, tutti quelli della scuderia di Minorana, Milanello sì, lo mette in piede. Grazie Ivano, sono tanti tifosi del Milan, sì, a pensarla credo così. Che, insomma, facendo un sondaggio sarebbe la stragrande maggioranza in realtà convinta che il Milan debba rompere, insomma, con un certo modo di gestire gli affari, al di là di rompere personalmente con Mino Raiola, che comunque, insomma, fa il suo interesse. Il problema è che qui non coincide del tutto con quello del suo assistito, a detta di quasi tutti gli opinionisti, e soprattutto non coincide con l'interesse del Milan, evidentemente. Il Milan quanto può spendere ancora sul mercato, invece? Beh, ancora ne ha spesi un centinaio. Sì, ne ha impegnati, diciamo così, finanziariamente, considerando che Chessy lo deve pagare fra 2 anni. Però, insomma, era questo il budget, era questo quanto preventivato, ed è funzionale a raggiungere una serie di obiettivi diversi ma convergenti, cioè il fatto di riportare subito la squadra in Champions per attivare quelle linee di sviluppo indicate nel piano industriale, in particolare sull'area commerciale, sull'area asiatica, anche se magari i numeri che sono usciti, insomma, sembrano un po' esorbitanti, ma lo credo io, ma lo crede anche la UEFA, che non a caso non ha voluto fare il voluntary agreement. Però ecco, la strategia è quella di crescere il più velocemente possibile, anche per dimostrare la serietà del progetto alla stessa UEFA, in ottica del voluntary che poi sarà valutato da ottobre in poi, e soprattutto valutare la possibilità di riattivare dei legami, diciamo così, politici con il governo di Pechino, che possano portare dei soci finanziari come erano inizialmente presenti, possano favorire l'uscita dei capitali, che era il progetto iniziale, esattamente, ed togliere in qualche modo il Milan dalle mani di Elliott e del prestito da restituire dai 18 mesi in poi, insomma, che è poi la cosa che grava di più sulla dirigenza rossonera in questo momento. Allora adesso parliamo della Roma. Massimo Caputi, ciao, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio. Allora, rapidamente un paio di voci di Di Francesco oggi alla presentazione. La prima sulla Roma, squadra di livello top. Secondo me è una squadra molto competitiva, con dei giocatori interessanti, interessanti a dir poco, ma di profilo alto, che ha avuto davanti, specialmente in campionato, una squadra fortissima come la Juve, però che ha dimostrato di essere una squadra di top livello. E poi sul fatto che si debba fare qualcosa di più già a partire dalla prossima stagione. Più che idee, credo che ci dobbiamo preparare a lavorare sodo per poter cercare di ottenere maggiori successi in tutte quelle che sono le competizioni, perché questa società, questo ambiente, questa squadra richiede tutto ciò. E io sono pronto a questa sfida, cercando di migliorare sotto tutti i punti di vista. Di contraddittorio c'è anche che sono stati superati l'anno scorso tanti record, magari senza passa in secondo piano che questa squadra è arrivata seconda con 87 punti, portando un giocatore a fare più di 30 gol nelle varie competizioni. Si vede che c'è stato un lavoro dietro importante, ma per raggiungere poi magari qualche traguardo, tutti quanti insieme dobbiamo fare qualcosina in più, e io sono qui per questo. Questo Di Francesco. Massimo Caputi, perché, ne parlavamo prima anche con Pierluigi Pardo, c'è un po' di scetticismo a Roma intorno al progetto che parte? Lo scetticismo è dovuto al fatto che prendere un allenatore giovane come Di Francesco potrebbe equivalere a una sorta di ridimensionamento a quell'allenatore che magari sa di essere arrivato in grande club, e quindi magari si accontenta lui per primo di quello che la società gli può mettere a disposizione. Però mi sembra che proprio in conferenza stampa Di Francesco abbia risposto a questa diciamo particolare atmosfera che c'è intorno a lui, e lasciami dire che quello, diciamo, se dovessi sintetizzare un po' la prima giornata ufficiale di Di Francesco, le prime dichiarazioni, direi che la semplicità, l'entusiasmo e le idee chiare mi sembrano gli elementi base di questo inizio di avventura di Francesco alla Roma. Sì, che poi se vogliamo anche Monchi è una novità assoluta, dovremo tutti capire come lavora, chi è e qual è il progetto, non è solo sì, di Francesco. Hai ragione perché dei suoi modi, dei suoi metodi, delle sue idee si conosce poco. Diciamo che già intanto abbiamo imparato che è stato capace di prendere un calciatore così, che nessuno aveva mai pensato e nominato, addirittura facendogli fare le visite mediche in Olanda, è vero, dettate dal fatto che lui doveva andare in Confederation Cup, però insomma è uno insomma che agisce con e anche probabilmente dei modi di lavorare diversi da quelli a cui siamo abituati per i nostri italiani, con canali e modi di lavorare diversi, e poi anche da parte sua colpisce diciamo la determinatezza anche nelle espressioni e nel modo con cui si pone. E quindi insomma è una Roma che oggi ha presentato due elementi nuovi, diciamo presentato no perché Monchi già lo conoscevamo, però abbiamo visto i due volti nuovi di questa Roma, e sono due volti che per quello che mi riguarda, è solamente una sensazione evidentemente, stiamo parlando di due professionisti che dobbiamo conoscere bene, che forse diciamo potranno regalare delle belle sorprese. Sì, no, non necessariamente sono un ridimensionamento. Intanto Tolisso sta facendo le visite mediche con il Bayern di Monaco, Monchi ha detto che Rudiger resta a Roma e per Salah il prezzo del Liverpool lo fissa la Roma. Voglio sapere da Marco Bellinazzo, la Roma quanto può spendere sul mercato, che Roma sarà fino al 30 giugno quando deve rientrare nei paletti del fair play finanziario, e che Roma sarà dopo soprattutto? Beh, credo che sarà, dobbiamo aspettarci insomma una Roma molto spagnola, insomma sembra banale dirlo, ma l'idea è quella di puntare insomma su giocatori di qualità, magari non di nome, ma che possano crescere per permettere alla squadra di riaggiustare i conti, alla società, perché la Roma ha perso in questi anni mediamente 40-50 milioni a stagione, insomma non è più consentito dalla UEFA. E d'altro canto molto dipenderà poi dal progetto stadio, dai tempi in cui si sbloccherà, perché questo potrà chiaramente dare, al di là dei tempi di costruzione, però comunque dare un entusiasmo e una voglia allo stesso Pallotta di continuare, sì, che altrimenti anche insomma una visione con delle certezze. Io vi devo salutare, c'era la parte su Totti, che la riusciamo a sentire? 30 secondi di Francesco su Totti. Sì, la società ha parlato con Totti per quello che sarà il suo futuro da dirigente, è ovvio che a breve dovrà dare una risposta a Francesco per quello che sarà il futuro insieme alla sua società. È ovvio che io ho un legame con lui particolare, sarei molto contento di poter avere in un ruolo che sceglierà Francesco, perché è abbastanza grande per farlo, insieme alla proprietà, e di poter continuare a lavorare con lui anche se in un'altra veste. Massimo, che fa Totti? Va o resta? Ma io penso che la cosa migliore sarebbe restare. Io non credo che lui vada a giocare ancora. Diciamo che oltre a essere un'idea è anche un augurio, perché dopo tutto quello che ha fatto e quello che ha ricevuto nell'ultima apparizione allo Stadio Olimpico, andare a giocare da un'altra parte solo per dire che si sente ancora un calciatore, inficerebbe un po' quella che è un qualcosa di unico e che dovrebbe rimanere tale. La chiusura naturale è quella. Grazie Massimo Caputi. Grazie Massimo, ci fermiamo qui. Io ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Edoardo Lavezzari in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, Marco Bellinazzo che ci ha raggiunto. A presto. Appuntamento domani dopo il GR delle 14. Ciao. Abbiamo visto abbastanza. Ciao a tutti. Saluti.